e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, vedo già delle domande su cosa succederà ai vertici del gruppo Unicredit dopo che Radio 24, lo diciamo con un pizzico di orgoglio che non guasta mai, ha ieri anticipato, come oggi ripreso da tutti i giornali, un clima di forte tensione tra Alessandro Profumo e i soci di maggioranza del gruppo Unicredit, soprattutto, anzi principalmente, per via dell'ingresso dei libici, di cui ci siamo occupati venerdì proprio col governatore del Veneto Luca Zaia, molto molto molto scettico, dice una scalata dei libici. Ecco, gli umori leghisti si saldano anche, la Lega esprime per esempio attraverso il sindaco di Verona Tosi dei consiglieri dentro la fondazione Cari Verona, che a sua volta è una fondazione di massimo peso dentro il gruppo Unicredit. Dicevo, questi si saldano anche a dei mal di pancia, secondo quanto risulta Radio 24, di alcuni azionisti di Unicredit che, assieme a Intesa, se lo contendono, dovrebbe essere un po' più Unicredit la principale banca italiana. Non ci sono in questo momento novità, è chiaro che ve le daremo in tempo reale. Sulle tensioni esistenti dopo l'ingresso dei libici, che, come anche raccontato in questi giorni dalla stampa, è stato voluto, sicuramente avallato, dal numero uno Alessandro Profumo. Ancora andiamo avanti con i temi di questa giornata. Parleremo subito di evasione fiscale, di fisco, del nuovo redditometro. Perché? Perché oggi i commercialisti, i ragionieri contabili hanno presentato quello che sarà il loro congresso annuale di fine ottobre, ma insomma sono ancora fresche le polemiche della scorsa settimana, quando il Centro Studi Confindustria ha fatto notare come l'evasione in Italia conosca, ce ne eravamo accorti, livelli insostenibili, pur precisando che il governo, l'Agenzia delle Entrate, si è mosso nella giusta direzione, si sta muovendo nella giusta direzione. E sarà anche l'occasione per capire quale rapporto ci può essere tra commercialisti e Agenzia delle Entrate. I mercati finanziari, sempre tensioni sul debito irlandese e sul debito greco. Grecia oggi paralizzata dal blocco degli autotrasportatori, i camion che assediano Atene, ve l'hanno raccontato anche i nostri GR. L'euro è sempre forte, a quota 1,31 sul dollaro. Per quello che riguarda le borse, bene, molto bene Milano, più 1,3%, come Parigi, più 1,70 Parigi, più 1,4 Francoforte, più 1,7 Londra. L'America guadagna un punto percentuale. E partirei dalle borse con le notizie in breve. Vi ricordo che, oltre a parlare di fisco, dei dati congiunturali di Federmeccanica e dell'apertura comunque fatta dal mondo delle imprese metalmeccaniche alla FIOM, anche della vicenda Fincantieri parleremo, e poi parleremo di risparmio gestito con il presidente di Assogestioni. Oggi i dati, la raccolta torna a essere positiva per il mondo dei fondi comuni di investimento, restano alcune perplessità anche nostre, ne parleremo più avanti. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. Allora, restiamo sui mercati. I titoli molto molto bene Fiat, più 4,6 Exor, quindi la holding, più 4,3%, Mediaset più 2,80 come Steamicroelectronics, Bulgari più 2,5, Telecom più 2,3 come Eni e Saipem. Il 2% lo guadagna Mediobanca, ma anche Pirelli. L'1,80 è il rialzo delle generali, l'1,60 quello di Enel, di Buzzi Unice, 1,5% rialzo di Snam, Rete Gas e Impregilo, ma anche di A2A. Tenaris più 1,4 come Mediolanum e Atlantia, ma anche Autogrill. L'1,3% lo guadagna Prismian, Intesa San Paolo e Ansaldo STS. Su subito, volete sapere cosa fa Unicredit? Unicredit guadagna l'1,041% in linea con gli altri bancari. L'oro, nuovo record dell'oro, nonostante i rischi che ha illustrato George Soros, il guru degli speculatori, degli investitori, ha detto nell'oro c'è una nuova bolla, nuovo record, 1.283 dollari l'oncia. Vedo che alcuni di voi ci scrivono perché in effetti ci sarà la settimana prossima a Piacenza, se non ricordo male, il Festival dei Gufi e degli amanti dei Gufi, e ci hanno invitato, il nostro Gufo è vivo, parteciperà anche lui. Per ora, oggi, non vediamo elementi che lo facciano tornare, diciamo così, a farsi sentire. Non ci sono gufate da parte di principali esponenti dell'economia, della finanza, delle banche e ministri in giro per l'Italia e per il mondo. Ancora, diciamo, gli spread di Irlanda, ossia la differenza tra quanto costa finanziarsi per la Germania il proprio debito e invece per la Grecia e l'Irlanda, la differenza continua a aumentare, nel senso che aumenta il rischio che il mercato vede su Irlanda e Portogallo. In questo caso, nuovi record, 391 punti di differenza con il Bund tedesco per l'Irlanda e 377 per il Portogallo. Poi è ulteriormente corretto a questo punto anche i CDS irlandesi, hanno fatto un nuovo record. La sorveglianza, ha detto il presidente della Banca Centrale Europea Trichet, sui paesi deve essere preventiva, e così come l'ipotesi di un fondo permanente di salvataggio dell'Unione Europea è stata avanzata dal commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn, un fondo di sicurezza. In questi tempi ancora non si è sicuri di quello che capiterà a Irlanda e Portogallo, soprattutto l'Irlanda, dove questa Anglo-Irish Bank sembra un pozzo senza fine, si buttano dentro soldi pubblici, ma ancora non, la situazione non migliora. E sempre il commissario europeo di affari economico monetari Olli Rehn ha detto: attenzione, le prospettive di crescita in Europa sono molto incerte, però ha detto che la Commissione europea è certa che il debito italiano sarà sotto controllo. E poi sempre il commissario europeo ha detto: dall'Italia sono arrivate misure rigorose, occorre però anche intensificarle. Veniamo e chiudiamo con l'Italia, poi parleremo di meccaniche e Fincantieri, lo sciopero, gli scontri e anche l'Italia che smentisce gli esuberi, insomma tutto. Però sul commercio con l'estero oggi il dato di luglio vede un calo rispetto a giugno, ma un aumento del 12,2% rispetto all'anno prima. Purtroppo è il primo calo a livello mese su mese dall'ottobre del 2009. L'attivo commerciale comunque sto pari a 1,8 miliardi. Germania più 14% come export italiano rispetto all'anno prima, Francia più 8, Spagna più 15, America più 16, Gran Bretagna più 9, Russia più 21, Cina più 48, India più 18. Ripeto, di Federmeccanica parleremo più avanti, anche della smentita di Alitalia, che poi non è una smentita, ha detto: non confermiamo l'anticipazione di ieri sul Corriere della Sera in cui si ipotizzavano 1.800-2.000 lavoratori in meno, circa 1.200-1.400 all'inizio, poi 600 precari fa 1.800-2.000 lavoratori in meno, cioè portare i dipendenti al livello iniziale del cosiddetto piano Fenice, il piano che vedeva in Alitalia restare solo 12.600 dipendenti contro gli attuali 14.000. E appunto la chiusura dei cantieri di Fincantieri, gli scontri con la polizia, insomma, Castellammare di Stabia a Napoli, Riva Trigoso a Genova, tagli per quasi 2.500 addetti, anche qui è un'anticipazione di sabato del quotidiano La Repubblica, e anche qui Fincantieri dice: non abbiamo preso alcuna decisione, non dice che non è vero, dice non abbiamo ancora deciso. E anche il ministro del welfare Sacconi ha detto oggi da Bergamo di non aver ricevuto alcuna comunicazione né da Fincantieri né dall'Alitalia. Allora, di profumo sentiremo, anzi facciamolo sentire subito, perché insomma oggi si sono incontrati i vertici dell'economia e della finanza italiana a Milano con il ministro Tremonti nel corso di un convegno dell'Aspen Institute a porte chiuse. C'erano il numero uno dell'UBI Banca, Massià, quello dell'Unipo Stefanini, Mussari, che sia presidente dell'ABI che presidente del Monte dei Paschi, Corrado Passera, numero uno di Intesa San Paolo, Alessandro Profumo, numero uno di Unicredito, Massimo Ponzellini della Popolare di Milano e Domenico Siniscalco, che sarà nostro ospite nella seconda ora del programma come presidente di Assogestioni. Nulla è trapelato, magari chiederemo a Siniscalco come ha trovato Profumo, visto che l'ha visto questa mattina. Ha evitato con tutti i cronisti le domande sulla Libia e sulle tensioni interne. Unicredito ha detto semplicemente, anzi la banca centrale libica ha detto di essere soddisfatta per l'investimento che ha effettuato in Unicredito, e ne prendiamo atto, ma non mi sembra questo il problema. Sembra di capire che sono gli azionisti di Unicredito a non essere soddisfatti dell'investimento fatto dai libici dalla banca libica. Durissimo e molto anche caustico il sindaco di Verona Tosi, ha detto attenzione, chi sbaglia paga, questo sulle possibili conseguenze delle tensioni tra gli azionisti principali e Alessandro Profumo. Mentre questa mattina a 24 mattino il sindaco di Torino Sergio Chiamparino, di cui del gruppo Unicredito è azionista infatti importante anche la fondazione della Cassa di Risparmio di Torino, ha detto a me avere i libici non crea nessun problema. A me non dà fastidio, a condizione che, diciamo, questo non metta in discussione il ruolo che di grande banca che Unicredito ha saputo conquistarsi in tutti questi anni. Poi le voglio dire anche una cosa, dato che io a suo tempo ho attaccato perché sospettato di ingerenza nelle banche, io dico questo è un tema sul quale il sindaco non ha nulla da dire, si pronunciano gli azionisti, io mi pronuncio su ciò che può o deve fare la fondazione CRT perché ritengo di averne il diritto, ma su ciò che deve fare Unicredito si pronuncia al limite l'azionista CRT. E restiamo in tema bancario, però del rapporto banche con le piccole e medie imprese. Perché oggi è stato presentato a Padova, per la precisione, il roadshow, cioè quello che saranno le varie tappe di questo giro nelle varie città del nord-est di Banca Antonveneta con il gruppo Sole 24 Ore, quindi ne parliamo ancor più volentieri, le piccole e medie imprese all'estero, dal nord-est ai mercati globali. Gli obiettivi del progetto li ha illustrati il direttore generale di Banca Antonveneta, Giuseppe Menzi, al microfono della nostra Silvia Menetto. Conoscendo ormai da tempo, gli imprenditori soprattutto del nord-est sono ambiziosi già di loro. Sicuramente noi a fianco a loro possiamo cercare di guardare oltre, non soltanto il tema di parlare della crisi, ma traguardarla questa crisi guardando in alcuni mercati. Si parla spesso e volentieri sempre di Cina, di India, di Brasile, di paesi che stanno crescendo a due cifre. Beh, si possono fare delle cose concrete anche in quei settori. Tra l'altro proprio col Sole 24 Ore stiamo cercando di portare avanti altri roadshow che riguardano alcuni settori come l'agroalimentare. Ecco, inevitabile fare un accenno anche a Basilea 3, perché l'accesso al credito per queste imprese è quello che resta lo scoglio maggiore. Come si può superare questo scoglio? Basilea 3, presto ancora per parlarne. Comunque le ultime notizie ci tranquillizzano un pochino. Certamente ci sono organi deputati che faranno la loro parte per arrivare alla definizione di Basilea 3, vedremo come va il summit di Seoul, però dobbiamo pensare al 2011 prima di pensare al 2013, 14, 15 e 19. E se su questo aiuto che assistenza che gruppo Antonveneta, noi lo dico anche a chi scrive, tutte le volte che un gruppo bancario ha delle iniziative, non importa il nome, che aiutano le piccole imprese italiane e anche i risparmiatori, noi li accogliamo e anzi invitiamo sempre di più a farlo. Dicevo, su questo si è espresso anche il vice ministro alle attività produttive Adolfo Urso, che ha detto questa è una scommessa da vincere, occorre insomma aumentare l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Che cosa si può consigliare agli imprenditori che sono coinvolti nell'iniziativa? Beh, Lo ha raccontato sempre la nostra Silvia Menetto, il presidente di Padova Promex, che è l'azienda speciale della Camera di Commercio di Padova per l'internazionalizzazione, e si chiama Mario Cortella. In assoluto il consiglio che aggregandosi riusciamo a superare la crisi. E quindi avere lanciato questo slogan ha fatto sì che anche il sistema bancario entrasse in sintonia con noi. Quindi abbiamo messo insieme quei soggetti che insieme riescono a dare una risposta al mercato, ma a livello di singolo non hanno opportunità. Ci presentiamo al mercato, ci presentiamo alle nostre 96.000 imprese per dire: è finita l'epoca del piccolo e bello, non esiste più. Oggi bisogna mettersi insieme, ognuno con la sua peculiarità, con le sue caratteristiche, con le sue capacità che sono infinite, però in un contesto dove tutti abbiano il ruolo di grande specializzazione. Il Nord-Est sta cambiando radicalmente. Da imprenditore devo dire che all'interno della mia impresa, che indubbiamente è un'impresa media, cioè non è una grande impresa, io ho un indotto importantissimo che in questo momento è esattamente il settore che più soffre. Quell'indotto però, se non lo aiutiamo e se non lo mettiamo in rete, crea difficoltà anche alla mia impresa. Per cui ecco che un'azienda leader debba necessariamente coordinare tutti quei soggetti che possono essere protagonisti se messi insieme. E se lasciati liberi da ogni vincolo, non hanno futuro. Allora, in bocca al lupo anche a questo gruppo bancario, come a tutti quelli che aiutano le piccole e medie imprese italiane. In bocca al lupo anche a Anton Veneta, ma soprattutto alle piccole e medie imprese che cercheranno attraverso questo percorso di aumentare la quota di export e di internazionalizzazione. Cambiamo rapidamente tema, mi riferisco infatti al Congresso Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili, oltre 110.000 iscritti che si incontreranno, non tutti però, i delegati a Napoli il prossimo 21-23 ottobre. Presentato oggi in conferenza stampa, presentati i temi del congresso. Allora parliamone con il presidente dei commercialisti regionali e contabili, Claudio Siciliotti. Buonasera. Buonasera a lei e a chi ci ascolta. 110.000 iscritti, tantissimi praticanti, 30.000 praticanti. Con lei spesso abbiamo parlato anche dell'accesso alla professione. Vorrei invece restare oggi sul fisco. Allora, la Confindustria poi ha chiarito il pensiero, ma insomma il centro studio ha detto, insomma, l'evasione fiscale in Italia ha dei livelli non solo insostenibili, ma anche completamente eccezionali. Qualcosa è stato fatto, però attenzione che così il paese non tiene con questo tasso di evasione. Voi incontrerete la vostra controparte, e cioè l'Agenzia delle Entrate, proprio a Napoli in una partita di calcio, se ho ben capito. E lì sarà interessante capire chi vince. Nella vita mi sembra che vinciate sempre voi, o meglio i vostri clienti, Siciliotti. Ma diciamo, la partita ha un titolo scherzoso e affettuoso che è avversari solo sul campo. Evidentemente vuole essere un auspicio di un nuovo rapporto di collaborazione che credo si sia realizzato a livello centrale, talvolta stenta a realizzarsi a livello locale, però dobbiamo spingere perché vada in questa direzione. Io ho detto molte volte: non più sindacalisti del fisco e dei contribuenti, ma istituzioni che lavorano nell'interesse del paese. Noi lo facciamo, lo devono fare anche loro. Non sempre questo avviene, ma insomma auspichiamo che questo avvenga in un paese in cui, ha già detto lei, è perfettamente giusto, noi abbiamo un livello di evasione fiscale intollerabile. Adesso, a seconda di come lo si voglia pigliare, secondo le statistiche è più o meno un 20% del PIL. Significa 250 miliardi più o meno di imponibili evasi e 120 miliardi di imposte sottratte al fisco. Questo è inimmaginabile. L'ultimo deficit di bilancio era 80, 120 significherebbero portarlo addirittura in avanzo. Quindi sì, è chiaro che è un obiettivo che noi ci dobbiamo porre. No, per dare il senso delle proporzioni, su 250 miliardi di euro che ogni anno non vengono dichiarati al fisco, lo fisco non ne incassa, e lo Stato, noi italiani non ne incassiamo circa 120. Sì, il deficit, cioè quanto il nostro Stato perde ogni anno tra entrate e uscite, è intorno agli 80 miliardi di... Il dato del 2009, che è eccezionalmente elevato. Sì, però in generale viaggiamo intorno ai 60. Comunque, insomma, detto questo, se recuperassimo, Siciliotti, non il 100% dell'evasione, ma se diciamo la dimezzassimo, cioè lasciamo un 60 miliardi che sono diciamo, 4-5 manovre finanziarie di evasione, beh, potremmo quasi azzerare il deficit. Allora altro che manovre poi, ma guardi, lì, e altro che spese per la scuola, per la sanità, per il federalismo, per le infrastrutture. Ma noi abbiamo fatto una simulazione che forse è interessante ripetere qui davanti a tutti gli ascoltatori. Se dal 2001 al 2008 la spesa fosse aumentata del tasso di inflazione più l'1%, quindi diamo atto che cresce del tasso di inflazione e gli aggiungiamo più un 1%. Se avessimo portato l'evasione dal 16%, così come la stima l'Istat, al 12% del PIL, come quella della Francia e della Germania, noi saremmo entrati nel 2009 con quasi 600 miliardi di debiti in meno, con un bilancio in avanzo e con un rapporto debito-PIL intorno al 70% anziché quasi il 106%. No, è che vedo i messaggi, sappiamo tutti che il problema è anche l'efficienza della pubblica amministrazione, i costi della burocrazia, certo. Una tassazione elevatissima che in questo momento non mi sembra di vedere, anzi nel progetto di federalismo le regioni potranno avere una banda, un'oscillazione più ampia, come ha anticipato Sole 24 Ore la settimana scorsa nell'IRPEF addizionale. Per cui sono tutti problemi. Detto ciò, non si può ogni volta dire ma io evado perché la tassazione è alta. Non funziona così il ragionamento, anche perché non tutti possono fare questo ragionamento. Pensionati, lavoratori dipendenti, anche del settore privato non lo possono fare. E comunque abbiamo fatto un esempio, diciamo, mantenendo la metà dell'evasione intoccata, cioè se solo recuperassimo metà e arrivassimo a un livello un po' più europeo. Non stiamo dicendo che scompare l'evasione. Voglio dire, chi scrive che magari dichiara 50.000 e ne guadagna 150.000, se dichiarasse, stiamo parlando 75.000 o 100.000, comunque manterrebbe una fetta di evasione di 50.000. Tutto qua. Ancora, la convince non il nuovo redditometro, ma insomma questa attenzione che avrà l'Agenzia delle Entrate per i consumi, anche l'iscrizione ai club, alle palestre, il tipo di auto usate, anche se in leasing, insomma un'attenzione più allo stile di vita e ai consumi che non alla dichiarazione dei redditi to cure? Ma mi convince se è applicata bene. Noi abbiamo parlato di redditometro già 3 anni fa, non difendendo il vecchio redditometro e ponendo molte cautele sul nuovo, quello che sta venendo fuori. Noi crediamo che funzioni nella misura in cui diventa, come dire, un accertamento basato su un dato puntuale. Sebastiano Barisoni ha una barca e l'ha pagata 1 milione di euro. È evidente che deve dimostrare come l'ha fatto. Non credo che ci debba questo aggiungere altri moltiplicatori che possano tenere conto della voluttuarietà della spesa, del fatto che stia a nord o a sud, del fatto che il suo nucleo familiare sia più o meno composto, perché se no lo deformiamo. Io posso dire che di questo ho conversato con Attilio Befera fino a sabato scorso e in una conversazione pubblica ha detto che assolutamente non sarà così. Noi ne prendiamo atto e ci fidiamo di questo. Così potrà funzionare. Se lo costruiamo con congetture diventa una sorta di studio di settore per famiglie e non funzionerà mai. Questo è un punto. L'altro punto... mi scusi, ho visto le dichiarazioni, eravate con Attilio Befera, il direttore dell'Agenzia delle Entrate. Befera ha detto nuovo redditometro non sarà uno studio di settore per le famiglie, ma perché non funzionerebbe secondo lei? Perché secondo me se a un dato puntuale gli costruiamo sopra un castello di congetture si perde anche l'efficacia evocativa di quel dato puntuale e si finisce in una banda di aleatorietà talmente vasta da incoraggiare il contenzioso da un lato e dall'altro non colpire la vera evasione. Sicilotti, non ho capito. Io glielo spiego, cioè se qualcuno pensa che io ho speso X per andare alla palestra di super lusso, questo io devo dimostrare X, non devo dimostrare X più 1 perché qualcuno presume che questo sia un consumo voluttuario. Io faccio quello che voglio, le priorità di vita me le scelgo io, sì, in un paese libero. Quindi non vorrei che si aggiungessero dei moltiplicatori. Che ho capito, però proprio per seguire il suo esempio, a parte il fatto che rassicuro gli ascoltatori e chiede da vetro che io non ho una barca da 1 milione, non ho proprio la barca, non ho neanche ho il canotto gonfiabile di mio figlio, diciamo, però... questo volevo chiedere, ma se uno si iscrive a una palestra che ha, poniamo un affitto, un costo annuo di 10-15 mila euro, una palestra extra lusso. E poi dichiara lui stesso, beh, qua sorridono, ma abbiamo visto casi ben peggiori, gente con le Ferrari nulla tenente. E poi dichiara di avere un reddito di 30.000 euro. Il fatto che ne spenda 10.000 per la palestra, per carità, o è un piccolo Schwarzenegger o se no forse guadagna un po' di più. Certo, ma questo è esatto, basta fermarsi a questo dato, 10.000-15.000 spesi per la palestra, non, ripeto, pretendere di adeguarlo in relazione alla natura di supposta voluttuarietà che può avere questa spesa. Ripeto, però devo dire che mi è stato più volte assicurato che così non sarà. Noi siamo lieti di aver esternato delle preoccupazioni, come siamo lieti di verificare che si tratteranno di preoccupazioni infondate. Se saranno infondate saremo i primi a rallegrarcene, perché la lotta all'evasione è una cosa seria e quindi noi ci sentiamo coinvolti in questo e quindi il segnale che abbiamo lanciato è in la direzione di una possibile deriva che, ripeto, ci viene detto da più parti, non sarà perseguita. Noi apprezziamo molto il vostro sforzo, anche perché io ho detto il commercialista è il consulente, alcuni dicono che è il consulente dell'evasore, non è vero, non necessariamente, però senza uno sforzo e un atteggiamento anche dialettico da parte vostra, un recepire questo atteggiamento nuovo, è chiaro che lo Stato, l'Agenzia delle Entrate poi diventa solo un poliziotto, mentre qui bisognerebbe avere appunto un percorso virtuoso da parte di entrambi e non solo per quello che riguarda l'attività di repressione dell'Agenzia delle Entrate. Grazie al Presidente, in bocca al lupo per il congresso, poi ce ne occuperemo di nuovo dal 21 al 23 ottobre a Claudio Sicilotti, Presidente dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Grazie a lei. Adesso andiamo col meteo e poi la borsa, buona la chiusura, più 1,15. Provate a farvi fare una ricevuta da un ristoratore di Alassio, neanche a piangere, scrive Gabriella. Guardi, se il problema fosse nei ristoratori di Alassio avremmo già risolto il problema dell'evasione. Purtroppo non sono solo i ristoratori e non sono solo quelli di Alassio. Comunque, meteo. ...17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Non possiamo più parlare di evasione, di lotta all'evasione, abbiamo altri temi, gli esuberi, ahimè, nel gruppo Fincantieri, i dati diffusi oggi da Federmeccanica, le smentito, meglio, correzioni, sospensioni, no comment per quello che riguarda Alitalia e soprattutto all'Italia, e poi la borsa che ha chiuso bene. Non ci sono notizie sul gruppo Unicredit, come arrivano ve le diamo, il ragionamento abbiamo già fatto in questi giorni. Comunque, dicevamo, la borsa più che buona, l'avvio più che buono, l'avvio della settimana. Ha un po' ridotto il guadagno, però chiude con un più 1,1% Milano, più 1,3% più 1,3 Francoforte, più 1,7 Parigi, più 1,6 Londra, e l'America un punto percentuale. Euro sempre forte a 1,3007, quindi vicino a quota 1,31. Sulla vicenda Unicredit non vi sono state in qualche modo ripercussioni in borsa. Il titolo guadagna non tantissimo, ma insomma, Intesa fa più 1, Unicredit fa più 0,90. Siamo sempre lì. Come sempre con i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Tokyo questa mattina chiusa, quindi non c'è stato nessun riferimento asiatico in apertura. Fiat ed Exor, un vero botto, più 4,7% Fiat, che rivede, si avvicina a quota 11 euro, e più 4,3% Exor, che va oltre i 16 euro per azione. Sì, Fiat dal giorno dell'assemblea... Exor è la finanziaria che controlla il gruppo Fiat. Esatto. Fiat dal giorno dell'annuncio dell'assemblea, insomma, che ha ratificato lo spin-off, la separazione della parte auto dal resto delle attività del gruppo torinese, ha messo a segno due ottimi rialzi, complessivamente quasi un 6,5%, che come tu dicevi ha portato il titolo vicino a 11 euro. Anche oggi, insomma, le reazioni delle varie case d'affari alle indicazioni che sono arrivate dal management sulla separazione del settore auto hanno permesso al titolo di fare questa performance. Va ricordato che tutto il settore auto si è mosso molto bene, è stato il migliore in Europa con l'indice europeo di settore che ha guadagnato il 2,25%, Fiat ha fatto praticamente il doppio, molto bene Xor, lo ricordavi, più 4,4%, anche perché influenzata dal piano strategico di SGS, società svizzera attiva nei servizi di ispezioni, di verifica e di certificazione, che è partecipata al 15% di Xor, sì. Il piano industriale di SGS ha dato la spinta anche alla Andrea, l'invito come sempre è ancora più rapido, che abbiamo molti titoli, sì. Perfetto ragionamento su Fiat ed Xor, Mediaset bene, è il terzo miglior titolo con tutto il comparto medio, più 2,8%. Sì, è una certa effervescenza sul settore media, sotto l'attenzione anche di case d'affari, non solo Mediaset, ma anche Lagardère, Peugeot e altri titoli. C'è anche effervescenza a livello mondiale nel settore, visto che secondo alcune indiscrezioni la società Dentsu giapponese starebbe trattando per elevare un'agenzia di comunicazione digitale statunitense, e questo ha dato spinta a un titolo come quello di Mediaset, che è particolarmente sotto i riflettori in questa fase. Allora, stacco anticipo di cedola, parziale anticipo di cedola per il gruppo Eni, e il numero uno, il ministro delegato Paolo Scaroni, ha confermato gli obiettivi del piano, bene, devo dire, anche Eni più 2,2%, quasi a 16 euro per azione. Sì, molto bene Eni, oggi ha staccato la contro il dividendo da 50 centesimi, ma con l'aumento del prezzo del petrolio, tutto il settore petrolifero si è ben mosso, va detto che anche British Petroleum a Londra ha avuto delle buone performance, visto l'annuncio della chiusura della falla nel Golfo del Messico. Come tu dicevi, Scaroni ha confermato gli obiettivi del piano, mentre si è mossa bene anche Saipem, che ha guadagnato il 2,4%, Saipem che ha annunciato nuovi contratti per circa 500 milioni di dollari in Algeria, Nigeria e Congo, e questa buona notizia per Saipem ha permesso al titolo di superare quota 29 euro. Il traffico, poi ancora un paio di titoli, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, mentre vedo adesso un flash d'agenzia che la Libyan Investment Authority ha il 2,6% nel gruppo Unicredito, per adesso andiamo a controllare i dati che avevamo noi sul 2,59% sulla partecipazione della Libyan Investment Authority, però insomma mi sembrava in linea con quanto risultava anche a noi. Qui i libici in Unicredito stiamo oggettivamente seguendo molto da vicino la vicenda. Andiamo avanti, Andrea, con altri titoli che ricordavo. Soprattutto, che è successo a un ex debuttante come PMS, più 15,5%, Pininfarina più 15%. Per quanto riguarda PMS, da qualche giorno che si muove molto in maniera molto volatile, soprattutto la scorsa settimana ha siglato un accordo di partnership con un'altra società di comunicazione. PMS è appunto una società di comunicazione, e questo ha dato spinta al titolo. Invece si sono mosse bene in doppia cifra, tu ricordavi Pininfarina più 15%, ma anche Uniland più 14%, Ratti e Jeffran tutte e due con un incremento superiore al 10%. Allora, Andrea, ancora il peggior titolo per quello che riguarda invece sempre i migliori e peggiori: Telecom Italia media sul risparmio meno 6%, Carrefour meno 5,84%. Tra i peggiori invece, nei titoli a maggiore capitalizzazione, segnaliamo pochissimo, ma insomma la Popolare di Milano meno 0,6%, Fondiaria meno 0,3%, e ancora, sempre in tema di borsa, domani ci sono i conti di Mediobanca, vale la pena, Andrea, ricordare che è chiuso bene anche il titolo. Sì, il titolo ha guadagnato quasi il 2%, fermandosi a 6,685 euro. L'attesa è appunto per i conti per domani e soprattutto per il ritorno al pagamento di un dividendo cash, un dividendo in contanti da parte di Piazzetta Cucha. Si parla di gli analisti stimano tra i 10 e i 20 centesimi di euro per azione, vediamo se le indiscrezioni, o meglio se le previsioni saranno confermate dai conti annuali, perché Mediobanca fa bilancio a cavallo tra gli anni solari, per cui dal 1 luglio al 30 giugno. Grazie Andrea Fontana, agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Cambiamo tema, torniamo a fare economia, non più finanza. A me però parlando anche dei posti di lavoro, è chiaro che fanno più rumore i posti di lavoro dei grandi gruppi quando ci sono tagli in vista o minacce di tagli in vista, anche se poi sappiamo che moltissime, centinaia sono le aziende in difficoltà. Però insomma il tema di oggi si chiama da un lato Fincantieri e dall'altro l'Italia, nel giorno in cui però Federmeccanica, ossia l'associazione che raggruppa la maggior parte delle imprese metalmeccaniche di questo paese, ha fatto un bilancio trimestrale. L'industria della meccanica in Italia non vuol dire solo Fiat, vuol dire quasi 60.000 imprese e 1.600.000 addetti. Come è andato il secondo trimestre? Più 14% rispetto al secondo trimestre del 2009, e questo è molto buono come dato, per cui è anche un 3% in più rispetto al primo trimestre dell'anno. Quindi insomma i primi sei mesi hanno confermato questa ripresa. Il problema è che nessuno scommette, anzi molti ritengono che i secondi sei mesi andranno verso un indebolimento di questi dati. Comunque l'aumento della produzione complessivamente nei primi sei mesi dell'anno è dell'8,6% rispetto al 2009, ma attenzione, siamo ancora sotto di un 28% rispetto ai valori massimi, cioè avendo perso l'industria della produzione meccanica intorno al 35% nel 2009, ha recuperato un 8,6%, manca ancora un 28 punti per arrivare ai livelli del 2007. E quindi se il vicepresidente Luciano Miotto dice che insomma la fase recessiva è superata, ma resta una fase di profonda incertezza, resta anche preoccupazione per l'occupazione, ma soprattutto, e ne sentiremo tra un attimo, ma soprattutto c'è stata un'apertura del direttore generale della Federmeccanica anche a un dialogo con la FIOM. La vicenda non è solo Pomigliano, ma anche Pomigliano. Non abbiamo ancora risposte, d'altra parte ci rivediamo domani dopo l'incontro del 15, quindi ho visto però nel frattempo che c'è stata una, non so se è una risoluzione, una dichiarazione, un documento prodotto dalla Direzione Nazionale della UILM che da questo punto di vista sicuramente non incoraggia, nel senso che c'è una chiusura abbastanza netta sul tema. Però vedremo, insomma, non abbiamo ancora risposte formali e ufficiali, noi la convocazione la confermiamo e anzi riteniamo che sia assolutamente necessario insieme alla definizione delle cosiddette, quello che ormai è diventato in gergo corrente, deroghe, ma che sono intese modificative, come recita l'accordo interconfederale. Ecco, insieme a quello noi riteniamo che ci sia bisogno, sia necessario definire delle norme specifiche per il comparto dell'auto, che del resto sono già previste dal nostro contratto, non sono, come ho già avuto modo di dire, una richiesta fuori sacco, sta nell'applicazione del contratto. Da parte nostra sicuramente c'è grande attenzione e grande anche disponibilità a riprendere le fila di un rapporto che si è bruscamente interrotto, noi riteniamo non per responsabilità nostra, però ognuno poi ovviamente dà le proprie valutazioni. Quindi tutto quello che può essere utile siamo interessati a verificarlo. Certo non può essere utile la richiesta che viene fatta di interrompere il negoziato che si è avviato, visto le dichiarazioni, il comunicato stampa FIOM, in cui si dice da un lato iniziamo un dialogo sulle regole e dall'altro intanto si interrompa il negoziato. Poi arriveremo anche ai dati, le preoccupazioni sulla tenuta dell'occupazione nel settore metalmeccanico, però il vicepresidente Miotto ha dedicato un passaggio del suo intervento anche all'assenza del ministro dello sviluppo economico, che dura ormai da 139 giorni. È sicuramente un problema molto argomentato il fatto che non esista un ministro dello sviluppo, però io mi concentrerei su un aspetto un po' più serio, che è Noi industria manifatturiera e noi metalmeccanici in particolare abbiamo bisogno di una politica dello sviluppo. Quindi ne approfittiamo anche noi per lanciare il nostro sondaggio. Chi sarà o dovrebbe essere secondo voi il prossimo ministro allo sviluppo economico? 349-238-6666. Ci risentiamo dopo GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, avete sentito dal nostro GR l'aggiornamento: domani un consiglio di amministrazione straordinario del gruppo Unicredito. Ripeto, questa mattina anticipato da Radio 24 ieri, l'elemento delle tensioni interne al gruppo scaturite, erano già sotto traccia, ma scaturite dall'ingresso dei libici come primo azionista. La banca centrale libica da un lato e il fondo sovrano libico, che insomma è sempre espressione dello Stato libico, e domani sul caso Libia e sull'operato dell'amministratore delegato Alessandro Profumo. Domani pomeriggio è in programma un consiglio di amministrazione straordinario con all'ordine proprio i rapporti con il top management, ossia con Alessandro Profumo. Ci fermiamo qui. Ma è chiaro a tutti che la situazione sta diventando incandescente dentro quello che è il primo gruppo italiano, bancario italiano. Ancora, per quello che riguarda invece i temi dell'occupazione, insomma, qui abbiamo sentito Federmeccanica aprire alla FIOM, a patto che però la FIOM non chieda di bloccare tutto, e anche i dati congiunturali. Sempre il vicepresidente di Federmeccanica, mi riferisco a Luciano Miotto, ha ricordato che, visto che appunto rappresentano 1.600.000 addetti, la situazione sul fronte occupazionale. Per quanto riguarda le attese occupazionali, noi dobbiamo, ahimè, registrare che nelle aziende maggiori con oltre 500 dipendenti, comunque continuiamo a registrare una perdita di posti di lavoro. Tant'è che rispetto all'analogo periodo del 2009 noi registriamo un meno 2,8%, ma anche la richiesta di cassa integrazione continua a crescere. Ora, il fatto che la richiesta di cassa integrazione cresca non significa che poi il tiraggio della cassa integrazione, cioè l'effettivo utilizzo della cassa integrazione, cresca. Rimane comunque il fatto che l'utilizzo della cassa integrazione è di fatto ancora forte e di fatto non siamo molto lontani da quelli che erano i valori di cassa integrazione ante crisi. E sostanzialmente un'azienda su quattro ritiene che comunque nel prossimo periodo ridurrà il proprio personale. Fa eccezione un 8% che crede di poter aumentare il numero dei propri dipendenti, dei propri collaboratori nei prossimi mesi. Ma il problema occupazione non è relativo purtroppo solo al mondo metalmeccanico. Infatti oggi si sono alternate notizie anche su due altri grandi gruppi. Uno è Alitalia e l'altro è Fincantieri. Partiamo da Alitalia. Dopo che il Corriere della Sera aveva anticipato un piano di esubero da 1.800-2.000 lavoratori, inclusi i 600 precari da non rinnovare, un piano che riportava l'organico, che riporterebbe l'organico ai livelli previsti dal piano Fenice, oggi Alitalia non ha né confermato, non ha confermato i contenuti dell'articolo. Una non conferma non è esattamente una smentita, come capisce anche un bambino. E però oggi il ministro welfare Sacconi ha detto di non aver ricevuto nessuna comunicazione né dall'Italia né da Fincantieri. Eh sì, perché c'è anche la vicenda Fincantieri, la chiusura di due cantieri, Castellammare di Stabia, Napoli e Riva Trigoso a Genova, anticipata sabato scorso al quotidiano La Repubblica, tagli per quasi 2500 addetti. Questa sarebbe la bozza del piano 2010-2014 di quella che è una delle più importanti aziende di cantieristica al mondo. Dipendenti diretti di Finmeccanica sono 8500, però poi attraverso appalti e ditte esterne l'indotto dei lavori di Fincantieri è di circa 18.000 lavoratori. Tra l'altro i siti produttivi sono 8, oltre ai due citati c'è anche Monfalcone, Marghera, Sesti Ponente, Ancona, Muggiano e Palermo. L'azienda ha detto: non abbiamo preso alcuna decisione, però questa mattina sciopero dei lavoratori e corteo a Genova. La preoccupazione del sindaco di Genova Marta Vincenzi l'ha raccolta la nostra Valeria De Rosa. Su Fincantieri come sindaco sono disponibile a fare qualsiasi cosa, perché considero la permanenza di questo stabilimento nella nostra città assolutamente indispensabile. Noi non possiamo esistere senza questa dimensione nazionale delle riparazioni navali di Fincantieri. Quindi io sono disponibile a qualsiasi cosa, sono indignata per come il governo da mesi non dà risposta all'accordo di programma che noi, il Comune in primis, ha definito già da tempo in tutte le sue parti per consentire allo stabilimento di Sestri Ponente di poter essere ribaltato a mare come condizione della sua competitività. Manca la firma del governo, manca un ministro delle attività produttive. Sono anche molto dispiaciuta del fatto che il management di Fincantieri non abbia sentito il bisogno, prima di lanciare sui giornali ipotesi di questo tipo, di fare un incontro o almeno prepararla politicamente. Allora intendiamoci, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, non è colpa del governo se la crisi morde sul fronte soprattutto occupazionale. Certo che un ministro, lo dico anche per rispondere allo sviluppo economico, dovrebbe gestire in questo momento soprattutto le crisi aziendali. C'è il ministro Sacconi per il welfare, ma insomma questo è il compito dell'ex ministro dell'industria, come si chiamava una volta. Continuate a votare al 349-238-666. Un'ultima notizia invece battuta dall'agenzia, ve la do subito, ossia il presidente francese Sarkozy poco fa ha dichiarato all'Assemblea dell'ONU che chiederà di adottare senza ritardi, quindi subito, una tassa universale sulle transazioni finanziarie, così da poter finanziare il raggiungimento degli obiettivi del millennio. Quindi tassa sulle transazioni finanziarie, una specie di Tobin tax, come capisco io. Comunque, traffico e poi parliamo del risparmio gestito, della raccolta dei fondi comuni di investimento. Lo facciamo col presidente di Assogestioni, Domenico Siniscalco. 349-238-6666 per gli SMS. Allora, ultimo appuntamento di questa giornata per Focus Economia con il presidente di Assogestioni, Domenico Siniscalco, ossia di chi gestisce, rappresenta tutti i fondi italiani e stranieri che gestiscono risparmio in Italia, per commentare l'andamento, soprattutto alla luce degli ultimi dati del secondo trimestre 2010. Presidente Siniscalco, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Lei che è anche a Morgan Stanley, presidente, è stato direttore generale del Tesoro, ministro dell'Economia e delle Finanze nel governo Berlusconi. Allora, andiamo con i dati di oggi. Voi, come patrimonio complessivo, come Assogestioni, più o meno siamo intorno ai 990 miliardi di euro di patrimonio gestito, il dato di giugno. Però questa raccolta positiva a che cosa è attribuibile principalmente? Ma io ritengo che la raccolta positiva e il dato sul risparmio dipenda essenzialmente anche dalle migliorate condizioni di mercato, dei mercati finanziari, come riflesso dal fatto, per esempio, che l'obbligazionario, il comparto obbligazionario, vada molto meglio del comparto azionario, come sta succedendo più in generale sul mercato. Sicuramente è da salutare la raccolta positiva, sicuramente è da salutare un po' di ritrovata fiducia da parte dei nostri risparmiatori. Ecco, delle varie categorie, poi se ne occupa spesso Deborah Rosciani la mattina di fondi, sappiamo che sono fondi più bilanciati, obbligazionari, molto equity, molto azionari, gestioni patrimoniali in fondi. Qual è quella che sta dando, così sempre in maniera molto sommaria, i migliori segnali di risveglio e quale invece quella che ancora resta e segna il passo e resta al palo? Ma guardi, è in forte crescita la gestione dei cosiddetti mandati, la gestione dei portafogli assicurativi, immobiliari e così via. Vuol dire in pratica prodotti venduti a questi operatori che a loro volta costruiscono dei prodotti per la clientela. Questo rappresenta più della metà del risparmio gestito italiano, circa un po' più di 500 miliardi, che rappresenta il comparto in crescita. Per quello che riguarda invece le gestioni collettive, quello che comunemente si chiama i fondi, il comparto è sostanzialmente stazionario, ma qui invece osserviamo una notevole sostituzione dei fondi esteri che rimpiazzano i fondi italiani, il che non ci fa piacere. Ecco, su questo lei ha lamentato un problema di competitività anche nel caso dei fondi comuni di investimento, però è una competitività fiscale, cioè l'Italia, se ho ben capito, è penalizzata fiscalmente rispetto ad altri fondi europei, ma non solo. Guardi, ecco, è penalizzata fiscalmente ed è penalizzata da un punto di vista regolamentare. Sicuramente questa differenza di competitività non è dovuta alla migliore o peggiore performance lorda dei fondi, ma appunto a questo. Tenga anche presente che nei fondi cosiddetti esteri una certa parte è di fondi italiani, cioè di banche italiane o di operatori italiani, semplicemente fondi di diritto estero. È proprio questo che mi fa pensare a questa mancanza di competitività. E qui bisogna che la questione del risparmio venga messa al centro della politica economica. L'Italia è il paese del risparmio, come lo è il Giappone, come lo è in parte la Germania. È veramente assurdo che riusciamo a fare emigrare via dall'Italia l'industria che gestisce questo stesso risparmio. Ecco, mi scusi, però la competitività fiscale, noi sappiamo che in Italia la tassazione sulle rendite da investimento finanziario è tra le più basse in Europa, 12,5%, per cui... Sì, certo, ma i fondi sono gestiti, sono tassati, mi scusi, sul maturato e non sul realizzato. E questo è un elemento. E questo è il famoso problema che affrontammo anni fa, chiaramente con. E poi c'è anche la questione, come dicevo, regolamentare, della complessità e così via, che di fatto rende molto più semplice e anche più redditizio piazzare un fondo in Lussemburgo, dico per dire, piuttosto che da noi. Questa è una cosa che mi preoccupa, come dicevo prima, perché effettivamente è indice di una perdita di competitività. Rischiamo nei fondi una specie di deindustrializzazione, sarebbe veramente assurdo. Ecco, una cosa però, vedo anche i messaggi al 349-238-6666, Presidente Siniscalco, ma questa clausola, che per carità è assolutamente legale, introdotta per legge, ma noi continuiamo a ritenerla in qualche modo inopportuna, del fatto che il gestore di fondi possa guadagnare, cioè chiedere una commissione, anche quando il fondo perde, ma può chiedere una commissione di extra performance se il fondo perde meno dell'indice di borsa, non è obiettivamente qualcosa che poi vi allontana di incomprensibile? Io capisco, voi dite, se la borsa ha perso il 7% e il tuo fondo azionario Italia ha perso il 4%, e ha fatto meglio della borsa, perfetto, però pagare una commissione di extra performance quando io perdo comunque valore nel mio investimento è difficile da spiegare all'opinione pubblica. Guardi, non c'è dubbio, quello che io però devo dire è questo: tutte queste clausole ritenute sfavorevoli vanno a posto nel momento in cui aumenta la competizione tra i fondi, per esempio quando entrerà in vigore la famosa direttiva che si chiama UCITS4, per cui il risparmio potrà essere non solo raccolto da fondi stranieri ma anche gestito, d'accordo? Quello che invece non va a posto, per quanta competizione tu ci metta, sono proprio gli aspetti regolamentari e gli aspetti fiscali, per quello battiamo su quelli. Non c'è dubbio che qualora le condizioni non fossero allineate, i risparmiatori sono liberissimi di spostare i propri soldi da un fondo all'altro, sì, mentre non è semplice portarli via dal paese. Ma in cuor suo io capisco che lei fa il presidente di associazione, però ha fatto, ripeto, anche altre cose, tra cui l'economista, non trova sostanzialmente sbagliato pagare un gestore e quindi anche la rete di promotori per un fondo che perde, anche se perde un po' meno della media? Beh, il tema è proprio che perda meglio della media, non è mai meno della media, non è mai piacevole naturalmente pagare delle commissioni per una cioè perdita, sarebbe come pagare un medico perché ti ha amputato il braccio, ma diciamo l'avambraccio, ma non ti ha... Non sono grandi esempi, nel senso che non è una malattia della gestione del denaro, ma non c'è dubbio che far meglio della media, se tutti perdono il 20 e io perdo il 5, tutto sommato la considero una buona performance. Comunque ripeto, nulla come le commissioni è lasciato alla libera concorrenza e alla decisione dei diversi gestori. Nulla come invece gli aspetti fiscali e regolamentari sono immuni alle pressioni della concorrenza. Presidente Siniscalco, un'ultima domanda. Lei questa mattina ha incontrato assieme a tutti i vertici bancari a Milano il ministro Tremonti e c'erano Corrado Passera, Ponzellini, insomma tutti, Mussari. C'era anche Alessandro Profumo. Ora è chiaro che non le posso chiedere cosa è emerso da questo vertice. Vorrei solo sapere come l'ha trovato Profumo? Normalissimo come sempre. L'ha trovato normalmente sereno. Va bene, no, questa era l'unica informazione che volevo dall'incontro dell'Aspen Institute. La ringrazio anche per la disponibilità. Grazie al presidente di Assogestione Domenico Siniscalco. Grazie a lei, arrivederci. Va bene, questa domanda su Profumo sereno. Comunque domani, a sorpresa, convocato il Consiglio di Amministrazione del gruppo Unicredito per discutere proprio i rapporti con il vertice. Vabbè, di temi staremo a vedere, insomma, le cose si complicano nel gruppo Unicredito. L'aggiornamento dall'America prevede in questo momento una Dow Jones in rialzo, anche se un po' meno, più 0,88%. Siamo in conclusione del programma. Giuseppe Cruciani condurrà la Zanzara come sempre. Giuseppe, buonasera. Eccoci qui. Allora, non lasciamo stare Profumo, Unicredito, il fisco. Per carità. Ci mancherebbe. Di che ti occupi oggi? Dovremmo avere come ospite il governatore della Puglia, Nichi Vendola. Oh, no. E poi il ministro Giovanardi, il presidenza del Consiglio Giovanardi, il quale ha detto che conduttori e cantanti del servizio pubblico devono fare il test antidroga. Ti preoccupa la cosa? Assolutamente no. Primo perché non sono conduttore del servizio pubblico, per fortuna, e secondo perché non faccio il cantante, faccio il conduttore certamente, ma a me sembra una cosa un po' ridicola, ma insomma ne parleremo nel corso della Zanzara. E va bene, abbiamo visto diverse dichiarazioni sul fronte cultura proprio in questi giorni, prima di Giovanardi, Bondi, sulla scelta dei giurati di Venezia. Grazie a Giuseppe Cruciani. Da Sebastiano Berisoni è veramente tutto, vi lascio al resto della programmazione. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.